con Alberto Crespi per fare un bilancio dell'anno cinematografico 2018 e per sapere i suoi cinque preferiti tra i film usciti in sala. Alberto, ben trovato. Bentrovati a te e a tutti gli ascoltatori. Dico Cosa ci dici? che ripercorrendo un po' il 2018 mi sono un po' andato a rivedere anche i film che sono passati nei festival più importanti, alcuni dei quali magari non sono ancora usciti in Italia. Devo dire che ho avuto l'impressione di un anno medio, non mediocre per carità, non voglio essere troppo negativo, però sì, un anno medio che non ci lascia, a mio parere, nulla di indimenticabile. Un anno probabilmente di transizione, anche per il motivo che vado a dire. Ho l'impressione che un domani si riparlerà del 2018 come l'anno in cui qualcosa è cambiato, ovvero l'anno in cui le piattaforme digitali, da Netflix e Amazon in giù, ma altre molto importanti ne stanno arrivando, perché anche corazzate come la Warner e la Walt Disney stanno approntando la propria offerta digitale. Ecco, il 2018 è l'anno in cui queste piattaforme hanno veramente cominciato a prendere il potere e a trasformare lo scenario in cui noi, vecchi cinefili, vecchi appassionati di cinema, siamo costretti a muoverci vedendo accadere cose che ci sconcertano. Sì. Io sono abbastanza sconcertato, però voglio essere anche molto lucido, cerco di essere lucido in questo, nel dire che il film più bello che io ho visto nel 2018, forse l'unico per cui azzarderei una parola oggi inflazionata, che è capolavoro, ma insomma, comunque un film che mi ha convinto molto, è The Ballad of Buster Scruggs, ovvero il western a episodi dei fratelli Coen, che è passato in concorso alla Mostra di Venezia. E già questo dovrebbe voler dire che è a tutti gli effetti un film. Però è un film che almeno qua in Italia, non ricordo se negli Stati Uniti ha avuto un'uscita tecnica in qualche cinema, ma almeno qua in Italia è disponibile solo su Netflix. E però è un film a tutti gli effetti, è un film soprattutto per come rimette in circolo un genere classico come il western, andando proprio alle radici proprio ancestrali, popolari di quel genere. Mettendo in scena in modo apparentemente ironico, o comunque spesso ironico, una riflessione sulla morte e sul modo in cui l'America è stata costruita, ecco, mi è sembrato un film di grande profondità ed è il film di una piattaforma digitale. Io penso che noi naturalmente dobbiamo fare di tutto per difendere la sacralità della sala cinematografica, però se difendiamo solo quella, sono abbastanza sicuro che siamo destinati a perdere. Siamo destinati a una gloriosa sconfitta, un po' come tutte le squadre che affrontano la Juventus in questo periodo. Ecco. Bisogna cercare di avere uno sguardo ampio e di capire che la fruizione di ciò che noi ancora ci ostiniamo a chiamare cinema è ormai molto diversificata e va veramente dal telefono cellulare fino al grande schermo delle sale IMAX. O accettiamo questa diversificazione, oppure sì, penso che siamo destinati a essere messi in una riserva indiana dove tra di noi ricorderemo il grande cinema del passato, ma fuori avverrà qualcosa che ci sfugge completamente. Sì. Interessante lettura. Senti Alberto, cosa hai amato tra i titoli del 2018? Allora, a parte la The Ballad of Buster Scruggs, che diciamo che mettiamo fuori classifica, Sì, una perché veramente menzione. secondo me. Sì, un po' perché veramente secondo me è fuori classifica rispetto a tutti gli altri film di quest'anno, un po' perché appunto nelle sale, almeno da noi in Italia, non è uscito. La mia cinquina è composta di titoli un po', forse un po' bizzarri, anche alcuni veramente fuori formato, due sono documentari. Mi è piaciuto moltissimo Santiago Italia di Nanni Moretti, che credo sia un modo giusto e intelligente di rileggere un episodio della storia del Cile, ma anche della storia d'Italia, la famosa storia dell'ambasciata italiana che negli anni nei giorni del golpe del 1973 accolse molti oppositori del regime di Pinochet e li aiutò poi ad arrivare in Italia. E mi è piaciuto molto un documentario che è passato a Venezia, di due cineasti siriani, due giovanissimi, il film si chiama Still Recording ed è proprio una full immersion in tutto ciò che è successo a Damasco e in generale in Siria in questi ultimi anni. I due ragazzi si chiamano Ghia Ayyub e Said Al-Batal, È un film potentissimo, molto interessante e che poi è riuscito a trovare anche la via di alcune sale in Italia. E poi andando un po' più sul classico, mi è piaciuto moltissimo Un affare di famiglia di Hirokazu Koreeda, il film che ha vinto la Palma d'Oro a Cannes Anche a e che ha me. consacrato, e che ha, mi fa piacere, che ha consacrato in qualche modo un grande cineasta che i grandi premi finora avevano ignorato. E sempre da Cannes mi è piaciuto moltissimo Tre volti di Jafar Panahi, che oltre a essere il solito film dalla prigionia, per così dire, di Jafar Panahi, ormai ne ha già fatti tre o quattro, è anche una riflessione proprio sul cinema, perché Panahi si mette in scena in prima persona come regista, come creatore di immagini, facendo un discorso molto interessante, secondo me, su come il cinema può anche sconvolgere la vita delle persone. E poi un film che, vabbè, questo va proprio contro i desideri della mia generazione, me lo dovete concedere. Mi è piaciuto, mi ha commosso enormemente The Old Man and the Gun, che dovrebbe essere, l'ha detto lui, l'ultimo film come attore di Robert Redford. E che quindi nasce proprio come un omaggio consapevole a questo attore, regista, produttore, creatore di festival, che ha avuto un ruolo tutt'altro che secondario e banale nel cinema del dopoguerra. E ecco, vederlo in quest'ultimo ruolo, con i baffi come ai tempi di Bud Cassidy a fare il rapinatore di banche, appunto a 80 anni, mi ha molto intenerito, e tutte le tante citazioni della sua carriera che ci sono nel film mi hanno appunto commosso. Ho trovato bello anche il resto del cast, da Sissy Spacek a Casey Affleck a Danny Glover a Tom Waits. Ma Sì, ecco, un anche film della vecchia. Sì, scusa. tutta la confezione mi ha sorpreso. Sembra un film degli anni 70. Esatto. Poi è sorprendente perché David Lowery è nato negli anni 70, è un regista giovane, insomma, adesso Sì. non ricordo l'età precisa, ma è un regista relativamente giovane che ha fatto proprio un calco del grande cinema di Pollack, di Penn, di Altman, di Peckinpah, tutto il grande cinema degli anni 70, che è stato un po' il decennio d'oro della Hollywood, almeno dagli anni 60 in poi, Sì, insomma. sì, sì, sì. Bene, bene. Allora, Alberto, io ti ringrazio, spero di vederti presto in sala. Auguri. Certo, sempre in sala naturalmente, però ogni tanto anche sul divano, che scomodo non è. È sempre un piacere, alla prossima. Alla prossima e tanti auguri a tutti Ciao. quanti.